Capitolo 5. L'amore naturale come medicina. Come ho accennato in precedenza, l'anima profonda potrebbe essere considerata una individualità sottile e naturale, simile per molti aspetti alle varie specie animali che popolano il pianeta. Chi conosce gli animali, e sia ben chiaro che conoscerli vuol dire amarli, dato che senza amore nessun tipo di conoscenza intuitiva è possibile, può forse intuire l'energia sottile che ispira i loro movimenti, i loro atteggiamenti, i loro giochi, i loro amori, le loro gioie, le loro tristezze, la loro allegria e, in definitiva, la loro specifica naturalità. Il riuscire a intuire tale specifica naturalità, dietro al modo di essere artificiale dell'io storico moderno, dietro alle sue convinzioni che egli crede che gli appartengano e che gli vengono invece dalle correnti di idee, anche apparentemente contrastanti e in opposizione, sulle quali si basa l'innaturale civiltà moderna, è il primo difficile compito di chi vuole guidare la persona che gli si è affidata. In realtà, più che sulle convinzioni e sulle idee, che da un punto di vista delle leggi della naturalità sono quasi sempre completamente da smontare con pazienza e perseveranza, come una gabbia della quale la natura profonda dell'individuo è prigioniera, ci si dovrebbe basare, al fine di intuire le caratteristiche della parte sottile nascosta dell'individuo, sulla sensibilità specifica della persona, sul suo modo di sentire profondo, sulle sue emozioni vere e ricorrenti, sul suo modo di comportarsi e di agire in quei momenti in cui si affievolisce il severo controllo dell'io esterno, che in base alle sue artificiali convinzioni e in base ai condizionamenti che gli vengono dalla società in cui vive, cerca di solito di impedire le manifestazioni provenienti dalla realtà profonda della persona. Purtroppo, a volte, anche la manifestazione emotiva e profonda delle persone è lesa e condizionata da false emozioni e da falsi sentimenti, che sono imposti dalla solita martellante azione snaturante del mondo attuale. Anche in tale contesto, quindi, chi cerca di intuire al di là delle apparenze deve compiere un'opera di discriminazione, di scelta e di verifica, individuando ciò che è reale e naturale e ciò che è falso e innaturale, come certi modi di sentire melensi e sdolcinati a cui si cercano di abituare persino i bambini, sin dalla più tenera età. Comunque, è nella manifestazione della spontaneità emotiva, negli atteggiamenti non formali e non controllati, negli interessi e nei desideri che vengono dalla parte più profonda della persona, che la dimensione sottile e nascosta può essere individuata ed eventualmente ricongiunta con l'io senziente e di veglia dell'individuo. Ma perché tale individuazione, e a maggior ragione, tale ricongiungimento possa avvenire, è necessario che l'anima profonda nascosta sia sentita, vezzeggiata ed amata nel modo più naturale possibile. A questo proposito è forse opportuno sottolineare che la parola amore e il verbo amare non hanno, per la più parte delle persone, il significato corrispondente a quella potente energia benefica e risanatrice con cui io ho operato e opero in questi casi e con la quale tanto tempo fa ha operato la mia saggia maestra su di me e con cui operano le guaritrici come me. Per cercare di farmi intendere a questo proposito, dirò che l'amore di cui io parlo dovrebbe essere del tutto simile a quello che si prova per gli animali e a quello che gli animali manifestano tra di loro, o ancora a quello che certi animali provano per l'uomo. Questo modo di amare, che è un amare che permette di conoscere chi si ama fin nella profondità della sua dimensione sottile, non è certo oggi di moda e anzi, quando si parla di amore per gli animali, in genere si intende qualcosa di completamente diverso. Vi sono ad esempio coloro che amano i cani, ma non i gatti, dato che per costoro i cani sono fedeli e obbedienti al padrone, mentre i gatti sono egoisti, disobbedienti e si affezionano alla casa e al cibo. Ovvero vi sono le signore della buona società che amano solo i cani di razze costosi, così come amano le pellicce che magari indossano quando accompagnano la loro bestiolina a fare una passeggiata. Ci sono poi coloro che amano solo il loro cane, o il loro gatto, o il loro cavallo, ma non quello degli altri, che anzi disprezzano e magari potrebbero addirittura maltrattare. E che dire di coloro che amano il loro cane da caccia, del quale enumerano con entusiasmo le capacità di sentire la selvaggina, di segnalarla al padrone e di stanarla in modo che gli possa riempirla di innaturali pallini di piombo? Questi, e altri modi di rapportarsi con il mondo animale non sono manifestazioni di amore, ma di egoismo sentimentale. E dal punto di vista delle leggi di madre natura, dei comportamenti e dei modi d'essere aberranti e sacrileghi che dovrebbero fare inorridire chi ha un minimo di sensibilità naturale. L'amore naturale è possibile solo per chi può amare non solo con la parte umana, ma soprattutto con la parte profonda di se stesso. Quella parte libera, spontanea e del tutto priva di sensi di colpa, di inibizioni e di condizionamenti che in genere viene repressa e soffocata nell'individuo. Dato che gli impulsi che da tale dimensione potrebbero venire sono certamente considerati molto spesso sconvenienti o vergognosi. A questo proposito, è forse opportuno sottolineare che l'amore naturale è quasi inconoscibile da parte degli uomini, che anzi spesso sono i primi a reprimerlo nelle donne che hanno vicino, dato che si giudicherebbero stupida o immorale la libera manifestazione dell'entità naturale femminile nella moglie, nella figlia o nella sorella. Parrebbe proprio che nel maschio, salvo ovviamente qualche rara eccezione, esista una predisposizione a limitare, contenere, impedire e alterare la libera manifestazione naturale. Tale predisposizione tirannica nei confronti della femminilità, suffragata da concezioni filosofiche o religiose per le quali è sempre l'uomo che deve decidere, dato che lui è in fondo superiore, del destino e del modo di essere della sua in fondo disprezzata o forse temuta e invidiata controparte, viene attuata sia nei confronti della singola donna, sia nei confronti della grande naturalità femminile, che si manifesta appunto nella bellezza, nella libertà e nella spontaneità della natura incontaminata. E così, come la singola fanciulla viene repressa sin da piccola nella sua spontaneità, a volte in modo diretto e violento e altre volte in modo subdolo e ingannevole, in modo analogo la natura, che a mio avviso è molto vicina e per certi aspetti del tutto paragonabile alla donna, specialmente per il significato simbolico che può essere intuito nella continua e sistematica violazione e distruzione della sua spontanea e libera bellezza, viene similmente maltrattata dall'uomo quando questo si manifesta nello sgradevole aspetto di padrone e tiranno. Il risultato di tale contronaturale azione, che prosegue in modi apparentemente diversi forse da qualche millennio, ovvero da quando tramontarono i tempi in cui i culti della grande madre erano uno dei perni intorno al quale ruotava la società, è sotto gli occhi di tutti. Foreste tagliate, fiumi costretti in argini artificiali, inquinamento, fauna distrutta, ma anche donne sottomesse e incapaci di vivere la loro vera natura, donne considerate esseri umani di seconda categoria o addirittura inferiori, donne snaturate a tal punto da ritenere giusto il predominio dell'uomo e la sudditanza femminile, donne divenute se stesse innaturali che arrivano a vergognarsi e a considerare peccaminosa la loro femminilità, donne che tradiscono l'armonia e la libertà di madre natura, perseguitando esse stesse istericamente le fanciulle ancora libere, donne diventate false, brutte, non naturali, cattive, repellenti, così come falsi, brutti, non naturali, cattivi e repellenti sono diventati certi luoghi del mondo nei quali anticamente regnava la libera armonia di madre natura. Coloro che non intendono e non soffrono il grande sacrilegio di tutto ciò, di cui in massima parte sono e furono causa proprio gli uomini, non potranno mai ovviamente sapere cos'è l'amore naturale, che è un potere evidentemente femminile, e possono però possedere, ovviamente nella sua magica completezza e non in modo limitato, solamente le donne che si sono mantenute assolutamente naturali o che la completa naturalezza, grazie agli insegnamenti di una maestra, sono riuscite a riacquisire. Tale amore naturale è il principale potere magico che possiede la guaritrice intuitiva, la sua più potente medicina, la sua più grande forza, il suo universale farmaco, il mezzo con il quale può operare incredibili guarigioni e forse anche miracoli. Esso non è egoistico, come a volte l'amore profano che tutti conoscono. Non è legato a un rapporto tra due persone, né limitato a fidanzati, amici, familiari. Non è riservato ai propri animali domestici, né a luoghi o situazioni. Esso si accende invece per ciò che lo evoca nel profondo di chi lo porta in sé. Si accende cioè per ciò che è naturale, genuino, vero e puro, per ciò in cui ancora vibra l'amore, l'armonia e la bellezza della grande madre. Si può accendere per un fiore che sboccia, per un leprotto che saltella nell'erba, per una cascatella che canta la sua musica d'acqua agli alberi che le stanno intorno. Per la pioggia che fa fremere di piacere i boschi e i campi assetati, per il gatto che fa le fusa ben accoccolato su una morbida poltrona. Ma ancora più si accende, esigendo imperiosamente aiuto e protezione, per una creatura della grande madre in difficoltà, che corre il rischio di morire o che è gravemente ferita o malata. In questo modo, la guaritrice intuitiva sente colei che chiede il suo aiuto. Al di là di quello che dice, che pensa, che ha fatto o che non ha fatto, al di là del suo aspetto fisico o del suo grado di istruzione, ella percepisce il pericolo che minaccia la sua naturalità profonda. E nel contempo percepisce che tale naturalità profonda, o essenza animale, è ancora viva e ha bisogno di aiuto. Si può pensare che nella guaritrice e attraverso la guaritrice possa addirittura in certi casi agire la grande madre stessa, che ispira in lei, al di là di qualsiasi ragionamento o di qualsiasi schema terapeutico, ciò che deve essere fatto e detto in quella particolare circostanza, nonché i particolari rimedi che devono essere usati al fine di risolvere la situazione morbosa che si presenta. Questi rimedi, come già ho detto, possono essere del tutto illogici dal punto di vista di qualsiasi considerazione terapeutica scientifica. Possono essere dei sassolini colorati da mettere nella borsetta, dei sacchettini contenenti erbe da portare appesi al collo, dei segni tracciati sulla pelle, il cambiare modo di vestire, l'usare dei vestiti di un certo colore piuttosto che di un altro, lo smettere di portare certi gioielli o certi indumenti e via dicendo. Devo anche dire che i rimedi intuiti, o forse consigliati dall'amore e dal potere magico della Grande Madre, per una particolare persona, in particolare momento, funzionano quasi sempre solo con quella persona e in quel momento, né avrebbe quindi alcun senso usarli con altre persone che presentano analoghi sintomi, ovvero fare una casistica dei rimedi di questo tipo, in relazione alle sintomatologie morbose risolte, dato che tali rimedi non potrebbero essere quasi mai usati un'altra volta in situazioni similari. Potrebbe sembrare che questa regola non sia valida per quei rimedi naturali, come le erbe, nelle quali esiste indubbiamente un'azione sulle malattie dovuta ai principi attivi in esse contenuti, ma sia ben chiaro che tali erbe, solo se raccolte pensando alla persona che dovrà usarle, come con la luna calante o crescente, a seconda che si desideri avere un'azione calmante o stimolante su un certo organo del corpo o su una certa funzione fisiologica, chiedendo l'aiuto della grande madre al momento della raccolta, rabbonendo l'entità sottile della pianta al momento del taglio di una parte di essa con un dono, un canto o una danza, se raccolte cioè in maniera rituale e non nel modo grossolano e lesivo dell'entità sottile della pianta in cui di solito vengono raccolti i frutti della terra, allora avranno certamente un'azione di molto superiore a quella che avrebbero se raccolte in modo non rituale. Tale azione, infatti, non si limiterà al fatto di curare semplicemente il corpo della persona che tali erbe userà in forma di infusi, ma essendo state colte in un modo tale per cui avranno in sé la vibrazione sottile dell'armonia naturale, diventeranno un vero e proprio nutrimento o uno stimolo al manifestarsi per l'anima naturale, nascosta nel profondo della persona che con esse si curerà. È evidente quindi che le erbe raccolte in questo modo non possono che essere usate dalla persona alla quale si pensava nel momento della loro raccolta, ed è altresì evidente, come ho già detto, che nessun tipo di commercio può essere fatto in questo contesto, dato che ciò sarebbe sacrilego e porterebbe secondo me sfortuna sia a chi ha raccolto le erbe, sia forse anche a chi le usa. Per usi profani, ovvero per usi semplicemente curativi, le erbe vanno semplicemente raccolte, anche se la parte sottile della pianta deve essere sempre, secondo me, acquietata e rabbonita nei modi opportuni, così come gli antichi facevano anche quando andavano a caccia o a pesca, riferendosi all'anima naturale dei selvatici o dei pesci catturati, semplicemente per procurarsi del cibo. Naturalmente, i modi per rabbonire e per non rendersi avversi con le gravi conseguenze che ne potrebbero derivare, le varie dimensioni sottili naturali delle piante, dei pesci o dei selvatici, sono diversi a seconda dei popoli, dei tempi e dei luoghi. L'importante comunque, oltre a ciò che si dice e a ciò che si fa, è rendersi veramente conto del fatto che operando in tali modi, che non devono ovviamente essere improvvisati, ma che devono ripetere fedelmente le parole e i gesti appresi dalla maestra e che risalendo indietro nel tempo sono sempre stati usati in questo contesto, ci si è messi veramente in contatto con la dimensione sottile della specie, dato che in caso contrario si sprecherebbero atti e parole, come in genere fanno i sedicenti maghi venditori di fumo. Dovrebbe essere comunque chiaro che i rimedi usati per guarire una certa sintomatologia morbosa non sono poi così importanti, dato che, come ho già detto, l'obiettivo che di norma si ripropone la guaritrice intuitiva è la guarigione totale di chi a lei si affida. E cioè la guarigione che si ottiene rinaturalizzando l'individuo e riaccordandolo con le eterne leggi di madre natura. Naturalmente questa guarigione totale può essere tentata solamente con quelle rare persone nelle quali le potenzialità sottili sono ancora presenti e ancora dotate di un certo controllo sull'io esterno, in modo tale che esse possano ancora influenzarlo e dirigerlo, fino a fargli chiedere un'opera di guarigione di questo tipo. In caso contrario, ben poco potrà essere fatto, dato che ovviamente non si può obbligare nessuno a tornare in armonia con la natura, né si può cambiare in modo eccessivo il destino di una persona. È anche evidente che colei che sarà stata guarita nel senso dato in precedenza a questa parola, potrà lei stessa un giorno diventare guaritrice, raccogliendo in segreto la meravigliosa eredità tramandata attraverso i secoli da maestra ad allieva. In questo genere di cose, infatti, nulla può essere improvvisato o inventato, dato che chi improvvisa o inventa compie una delle cose peggiori che possano essere fatte in questo genere di cose, dato che prende in giro se stesso e anche coloro che crederanno alle sue improvvisazioni e alle sue invenzioni. Tali invenzioni e tali improvvisazioni sono assai frequenti nell'ambiente dei sedicenti maghi e guaritori e generalmente vengono attuate allo scopo di ingannare il prossimo e di carpigli del denaro. Molte persone, purtroppo, che cercano una qualche via verso ciò che è al di là e al di sopra della realtà di tutti i giorni, finiscono per imbattersi in individui o gruppi di questo genere, con il risultato di non trovare nessuna via e di perdere il loro denaro, anche se molto spesso vengono talmente suggestionati da pensare di essere arrivati da qualche parte e da non rendersi conto di essere spesso in una situazione ancora peggiore di quella in cui erano in precedenza. Ma anche avvenimenti di questo genere sono forse un segno del destino, nel senso che la vita di chi è veramente amato e protetto da madre natura, e certamente in questi tempi non sono molte le persone che godono di questa invidiabile situazione, si svolge in un modo tale per cui costoro non rischiano di incontrare dei falsi maestri, dei venditori di fumo e dei guaritori, che sono degli imbroglioni, ovvero degli individui, magari presi in giro da spiriti burloni, che hanno fatto loro credere di essere ciò che essi non sono, ma vorrebbero, per presunzione, essere. Del resto, la via verso la guarigione assoluta e verso la totale sintonia con gli spiriti naturali e con la grande madre è lunga, difficile e irta di ostacoli e di falsi traguardi in cui incappano coloro per i quali le signore del destino o non filano o filano in maniera sfavorevole. Tutte le cose, quindi, anche le cose negative, come i falsi maestri e i falsi insegnamenti, hanno una loro funzione e una loro utilità, se non altro quella di impedire a chi non è a ciò destinato, probabilmente per demeriti e colpe commesse chissà quando e magari anche senza essersene reso conto, di non arrivare là dove possono arrivare solamente i più fortunati, che, come già si è detto tante volte, non sono i più ricchi o i più belli o i più famosi, ma coloro che ritrovano la totale comunione con la grande madre.